tutti buona notte. Cosa c'è? Offrenini! Sorrens, fra poco, no, faccia di cinese, mi si vede tutto di te, ragazzo, e mi si vede amore, mi compagnisco, mi compagni, e sono i tempi, e solo se mai vede giù, intende. Per te chi l'alcuni le offese degli ubriachi e capisca che vieni ti volna prova ti volna prova tanto. Bande in giro. pazzia tiene l'ora qua dentro, ma l'agenzia starebbe molto meglio. Nina mi del Torena.

son messo in cammino. Attratto sol dal fascino dell'oro, e questo in suono te non m'ha ingannato. Giocare il vostro nome. Thank you.

Thank you.

può dormire. Grazie, ora son calma. Andiamo. Se volete, io resto. No, buonanotte. Buonanotte. Il sogno è stato vano. fine tra porta, per uscire, no. Entra, no. Entra. Non credete, non puoi uscire. Entra, no. Entra, no. Tra queste brille, non sapete qui. No. Se verrà, nascondi, nascondi. Fate la porta, vai, vai, uscì. Resta, no. Resta, no. Johnson d'inferno. N'ho seguito la traccia, deve esser qui, dov'è? Oh, avete seccato con questo nostro Ramirez? E là? Per Dio ne son certo, non può esser fuggito, non può esser che qua. Thank you. c'è grasso. Guarda. Il sangue ancora. È là! È là! Sacramento, la scelta a noi, a corda, a pistola. Son pronto, taglia, a te. Mm. due mani sopra tre. Quante? Due. E a che tu l'adori? È un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva. Ora è la decisiva. Sì. Taglia. Franz, mi duole delle amare parole. Starta. Ho sempre pensato bene di voi, Jack Rans, e sempre penserò. Io penso solamente che t'avrò fra la mia braccia. Bene, bene, ti vinco! Presto già, per pietà, con poche cose fare. Che devo darvi? Dio, vedo, ma gli chiede dov'è? Presto già, mi lo chiede per pietà. So perché sei svenuta, la partita è fermata.

faccio quasi mi tradisci in parola di lì bada pamma quest'uomo perché sia dato alla comunità faccia essa giustizia la farà buona fortuna oh mio bel gentiluomo e così Mr. Johnson, come va? Scusate se v'abbiamo disturbato. Pure che facciate presto! Quanto a questo, bastano sbrigarci pochi minuti. È quello che desidero! E che desideran tutti, vero? Palazzo, dove sali? Hai saccheggiato tutto il paese! Accomandallato, rubato e ucciso! No! La squadra di Monterrey bandito fu massacrata dalle facce gialle di quelle tue canaglie messicane! Pugni e lastre alle spalle, il povero Tommy! No! Non è vero! Sì! Non mi dice da parte, ucciso un po' studioso e celesti! No! Dove? Tu lo cinesti! No! Dove la morte, morte, morte, morte! Maledizione a me! Fui ladro, ma assassino mai! Quella notte venisti per rubare con gli occhi sorriso di vigna riservati che lei sa rubato ladro, ladro con le mie ragazze Armiate lo scherno della morte, non mi metto pensiero, e ben voi tutti lo sapete, visto. Sciogliete un braccio, mi scosso di mia mano. D'altro voglio parlarvi. Yeah. sia mai come son morto. Un minuto sì breve. Lasciatela! Lasciatela! necessario troppo le dovia. E tu, mio trino, poi rifila. E giriti anche tu, non scrivi le prigi. E nel suo dritto e partiva. È necessario che lasci dirà quel che vorrà. I padroni siamo noi, andiamo, andiamo, ragazzi, è necessario, non lo vorrei tu. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的